Capitolo 15. La nuova mamma. Il martedì pomeriggio Molly tornò a casa, a quella casa che le era già estranea, sconcertante, come direbbe la gente del Warwickshire. Tinte nuove, tappezzeria nuova, colori nuovi. Tetri domestici agghindati al meglio e pronti a discordare con qualunque cambiamento, dalle nozze del padrone alla nuova incerata in ingresso che li faceva inciampare e cadere. Era fredda al tatto e aveva un odore terribile. Molly dovette ascoltare tutte queste lamentele e non fu un allegro preambolo all'accoglienza che, già lo sapeva, sarebbe stata spaventosa. Finalmente si udì il suono delle ruote della carrozza e Molly andò al loro incontro sulla porta. Suo padre apparve per primo, le prese la mano e la tenne mentre aiutava la sposa a scendere. Poi la baciò con affetto e la passò alla moglie. Ma il velo era avvolto con tale sicurezza, gli si addiceva molto, che ci volle un po' prima che Mrs. Gibson potesse liberarsi le labbra per salutare la nuova figlia. Poi ci furono i bagagli da sistemare ed entrambi i viaggiatori se ne occuparono mentre Molly stava in disparte, tremante per l'agitazione, incapace di dare una mano e consapevole solo dello sguardo piuttosto contrariato di Betty, mentre una scatola dopo l'altra andava a ingombrare il corridoio. «Molly, mia cara mostra, alla tua mamma e alla sua stanza!» Mr. Gibson aveva esitato, perché la questione del nome con cui Molly avrebbe chiamato la sua nuova compagna non gli si era mai presentata prima di quel momento. Il volto di Molly avvampò. Doveva chiamarla mamma? Con quel nome che per tanto tempo si era riferito a un'altra persona, alla sua vera e defunta madre? Il suo cuore ribelle si sollevò contro questa idea, ma non disse nulla. Fece strada verso il piano di sopra, mentre Mrs. Gibson si voltava ripetutamente per indicare ancora una volta quale borso o quale baule le fossero maggiormente necessari. Quasi non parlò con Molly, fino a che non si ritrovarono entrambe nella camera da letto arredata a nuovo, dove un piccolo fuoco era stato acceso su ordine della ragazza. «Ora, amor mio, possiamo abbracciarci in pace. Oh, cara, come sono stanca!» dopo che l'abbraccio finì. «Il mio spirito si lascia facilmente opprimere dalla fatica, ma il tuo caro papà è stata la gentilezza in persona. Caro, com'è all'antica questo letto? E che... ma non ha importanza. Un po' alla volta rinnoveremo la casa. Non è vero, mia cara? E tu stasera sarai la mia camerierina e mi aiuterai a sistemare alcune cose perché io sono esausta per il viaggio. Ho ordinato che vi fosse preparata una sorta di piccola cena», comunicò Molly. «Vado a dire dai pare chiare? Non sono sicura di riuscire a scendere di nuovo questa sera. Sarebbe molto confortevole avere un tavolino qui e sedermi in vestaglia davanti a questo bel fuoco. Ma del resto c'è il tuo caro papà. Non penso davvero che mangerebbe alcunché se io non fossi presente. Sai, non bisogna pensare a se stessi. Sì, scendo tra un quarto d'ora». Ma Mr. Gibson aveva trovato un biglietto ad attenderlo, che lo chiamava immediatamente presso un vecchio paziente pericolosamente ammalato, e dopo aver ingurgitato un boccone mentre il cavallo veniva sellato, dovette riprendere all'istante le sue antiche abitudini di devozione alla professione, prima di ogni altra cosa. Non appena Mrs. Gibson scoprì che l'uomo non avrebbe certo sentito la sua mancanza, aveva consumato un pasto molto discreto a base di pane e carne fredda in solitudine, perciò i timori di lei a proposito dell'appetito del marito in sua assenza non si erano rivelati fondati, desiderò che il cibo le fosse portato di sopra in camera sua. E la povera Molly, che non osava comunicare questo capriccio ai domestici, dovette portare su prima un tavolo, che per quanto piccolo era troppo pesante per lei, e poi tutte le scelte porzioni del pasto, che si era data un bel da fare a sistemare sulla tavola come aveva visto Hamley, con decorazioni di frutta e di fiori mandati quella mattina da varie case padronali, dove Mr. Gibson era rispettato e stimato. Un'ora o due prima Molly aveva considerato così bella la sua opera, e come sembrava tetra adesso, che finalmente libera dalla conversazione di Mrs. Gibson, ella sedeva sola a bere tè freddo e a mangiare cosce di pollo. Nessuno che guardasse le sue decorazioni e ammirasse la sua abilità e il suo gusto. Aveva pensato che suo padre ne sarebbe stato contento e invece non l'aveva nemmeno visto. Quelle attenzioni ella le aveva pensate come un'offerta di buona volontà alla matrigna, che proprio in quel preciso istante stava suonando il campanello affinché il suo vassoio fosse portato via e per convocare Miss Gibson nella sua stanza. Molly finì in fretta di mangiare e salì di nuovo. Mi sento così sola, cara, in questa casa sconosciuta. Vieni, resta con me e aiutami a disfare i bagagli. Penso che il tuo caro papà avrebbe potuto rimandare la sua visita a Mr. Craven Smith almeno per questa sera. Mr. Craven Smith non può rimandare la propria morte, ribatté Molly schietta. Come sei buffa, disse Mrs. Gibson con una risatina. Ma se Mr. Smith sta morendo come dici, a cosa serve che tuo padre corra da lui? Si aspetta un'eredità o qualcosa del genere? Molly si morse la lingua per impedirsi di dire qualcosa di sgradevole. Rispose solo: Non so precisamente se sta morendo. Il suo domestico ha detto così, e papà talvolta può fare qualcosa per alleviare l'ultimo dolore. In ogni caso, è sempre un conforto per la famiglia che lui sia presente. Che triste conoscenza della morte hai appreso per una ragazza della tua età. Davvero, se io avessi sentito questi particolari del lavoro di tuo padre, dubito che mi sarei indotta a prendermelo. Non è lui a causare la malattia o la morte. Lui fa il suo meglio per sconfiggerle. Credo sia una cosa molto bella ciò che fa o che tenta di fare. E lo penserete anche voi quando vedrete come viene considerato dalla gente, l'accoglienza che riceve. Beh, non parliamo più di queste cose deprimenti stasera. Penso che andrò a letto subito, sono così stanca. Se solo tu potessi sedere accanto a me finché non mi sarò addormentata, cara. Se solo volessi parlarmi, il suono della tua voce mi farebbe prendere sonno molto presto. Molly prese un libro e fino a che la matrigna non si addormentò, lesse ad alta voce per lei, preferendo quell'attività al più difficile compito di continuare a mormorare discorsi. Poi sgusciò fuori e andò in sala da pranzo, dove il fuoco si era spento, trascurato apposta dai domestici per segnalare il loro disprezzo nei confronti del fatto che la nuova padrona avesse preso il tè nella propria camera. Molly riuscì a ravvivarlo, tuttavia, prima che il padre rientrasse, e raccolse e preparò un po' di buon cibo per lui. Poi si inginocchiò di nuovo sul tappetino davanti al focolare, fissando le fiamme in una fantasticheria sognante, abbastanza infusa di tristezza da provocarle le lacrime che scesero dagli occhi senza farsi notare. Ma al rumore dei passi di suo padre balzò in piedi e si riscosse, mostrandosi allegra. «Come sta, Mr. Craven Smith?» chiese. «Morto». Mi ha riconosciuto appena. È stato uno dei miei primi pazienti qui a Hollingford. Mr. Gibson sedette nella poltrona preparata per lui e si scaldò le mani presso il fuoco. Sembrava non aver bisogno né di mangiare né di parlare, mentre ripercorreva il filo dei ricordi. Poi scacciò via la malinconia e, guardandosi intorno, disse piuttosto bruscamente: E dov'è la nuova mamma? Era stanca ed è andata a letto presto. Oh, papà, devo chiamarla mamma? Mi piacerebbe, replicò lui con una lieve contrazione della fronte. Molly tacque. Gli portò una tazza di tè, lui la mescolò e la sorbì e poi tornò sull'argomento. Perché non dovresti chiamarla mamma? Sono certo che intende svolgere i doveri di una madre con te. Tutti possiamo commettere degli errori e i suoi modi possono non essere immediatamente simili ai nostri. In ogni caso, cominciamo con un legame familiare tra di noi. Cosa avrebbe ritenuto giusto Roger? Questa fu la domanda che spuntò nella mente di Molly. Lei aveva sempre chiamato la nuova moglie di suo padre Mrs. Gibson e una volta aveva sbottato in presenza delle signorine Browning che mai l'avrebbe chiamata mamma. Non si sentiva stimolata verso il loro nuovo legame da quando era accaduto quella sera. Rimase in silenzio anche se sapeva che il padre attendeva una risposta. Alla fine egli rinunciò ad aspettare e cambiò discorso. Raccontò del viaggio, la interrogò sugli Hamley, sulle signorine Browning, su Lady Harriet e sul pomeriggio che avevano trascorso insieme alla Manor House. Ma i suoi modi denotavano una certa durezza e oppressione, e quelli di lei pesantezza e distrazione. Tutto d'un tratto ella disse: Papà, la chiamerò mamma. Lui le prese la mano e la strinse forte, ma per un momento non disse nulla. Poi riprese. Non te ne pentirai, Molly, quando ti ritroverai come il povero Craven Smith questa sera. Per un certo periodo i mormorii e i brontolii delle due domestiche più anziane rimasero confinati alle orecchie di Molly, ma poi si estesero a quelle di suo padre, il quale, con sgomento della ragazza, fu molto sbrigativo. Non vi piace che Mrs. Gibson suoni il campanello così spesso, vero? Siete state viziate, temo. Ma se non vi adeguate ai desideri di mia moglie, la soluzione è a portata di mano, capite? Quale domestico avrebbe resistito alla tentazione di dare il preavviso dopo un discorso come quello? Betty disse a Molly che aveva intenzione di andarsene, nel modo più indifferente che le riuscì a cospetto della ragazza di cui si era presa cura negli ultimi 16 anni. Da sempre Molly considerava la sua vecchia balia un punto fermo in casa. Era come se suo padre avesse proposto di tagliare i rapporti con lei. Ed ecco che Betty si chiedeva in tutta freddezza se il suo prossimo posto di lavoro sarebbe stato in campagna o in città. Ma buona parte di questa durezza era finta. Dopo neanche un paio di settimane, Betty si sciolse in lacrime al pensiero di lasciare la sua bambina e avrebbe preferito restare e rispondere a tutti i campanelli di casa ogni quarto d'ora. Persino il cuore virile di Mr. Gibson fu toccato dal dolore della vecchia nutrice, che gli si palesava tutte le volte che la incrociava attraverso la voce rotta e gli occhi gonfi. Un giorno disse a Molly: "Vorrei che chiedesse alla tua mamma se per caso Betty non potrebbe restare, se facesse adeguatamente le sue scuse e tutto il resto." "Non credo sarebbe molto utile", disse Molly addolorata. "So che sta scrivendo o ha scritto per sapere di un assistente cameriere delle torri." "Beh, tutto ciò che chiedo è pace e una decente quantità di allegria quando torna a casa. Ne vedo abbastanza di lacrime a casa degli altri. Dopotutto, Betty è stata con noi per 16 anni, una sorta di servizio del mondo antico, ma può essere più felice altrove. Fa quello che dico, chiedi alla mamma e se lei acconsente, io ne sarò contento." Così Molly si sforzò di fare quella richiesta a Mrs. Gibson. Il suo istinto le diceva che non avrebbe avuto successo, ma non c'è dubbio che mai il rifiuto fu comunicato in tono così dolce. "Mia cara ragazza, io non avrei mai pensato di mandar via una vecchia domestica, una che si è presa cura di te da quando sei nata o giù di lì. Non ne avrei avuto cuore. Per me sarebbe potuta stare con noi per sempre se solo avesse rispettato i miei desideri. Non sono irragionevole, giusto? Ma vedi, lei si lamentava e quando il tuo caro papà le ha parlato, lei ha dato il preavviso. Ed è assolutamente contro i miei principi accettare le scuse di una domestica che ha dato il preavviso." È così dispiaciuta, insistette Molly, supplichevole, dice che farà tutto ciò che volete e obbedirà ai vostri ordini se solo potesse restare. "Ma, dolcezza, tu sembri dimenticare che io non posso andare contro i miei principi, per quanto mi dispiaccia per Betty. Non avrei dovuto cedere al suo malcontento, come ho detto prima, anche se non mi è mai piaciuta, e sebbene la considerassi una domestica proprio inefficiente, assolutamente viziata dal fatto di non aver avuto una padrona per molto tempo. L'avrei sopportata, perlomeno. Penso di sì, il più possibile. Ora, ho quasi assunto Maria, che era assistente cameriera alle torri, perciò non voglio più sentir parlare delle sofferenze di Betty o di chiunque altro. Infatti, con quelle tristi storie del tuo caro papà e tutto il resto, mi sto veramente deprimendo. Molly tacque per un momento. Avete assunto Maria? Chiese. No, ho detto quasi assunto Maria. A volte si penserebbe che non senti le cose, Molly, replicò Mrs. Gibson con petulanza. Maria si trova ora in un posto in cui non le danno il compenso che meriterebbe. Forse non se lo possono permettere, poveretti. Mi dispiace sempre per i poveri e mai parlerei male di coloro che non sono ricchi, ma le ho offerto 2 sterline in più di quanto guadagna adesso, perciò credo che li lascerà. In ogni caso, se quelli le aumentano lo stipendio, io alzerò la mia offerta in proporzione. Dunque direi che sono sicura di conquistarla. Una ragazza così a modo porta sempre le lettere su un vassoio. Povera Betty, disse Molly piano. Povera vecchia, spero che le servirà da lezione di sicuro, sospirò Mrs. Gibson. Ma è un peccato che non avremo Maria prima che inizino a farci visite alle famiglie che contano. Mrs. Gibson era estremamente gratificata dalle tante visite giunte dalle famiglie che contavano. Suo marito era molto rispettato e numerose signore provenienti da residenze, palazzi e grandi dimore che avevano usufruito dei suoi servigi personalmente o per le loro famiglie ritenevano giusto onorare sua moglie di una visita quando venivano a fare spese a Hollingford. Lo stato di attesa in cui queste visite gettarono Mrs. Gibson diminuì considerevolmente il conforto domestico del suo marito. Era inopportuno portare piatti caldi e odorosi dalla cucina alla sala da pranzo proprio nel momento in cui i signori di alto rango, con i loro raffinati nasi aristocratici, potevano trovarsi lì in visita. Ancora più imbarazzante fu l'incidente che si verificò in seguito alla fretta della goffa Betty di aprire la porta principale al bussare di un altero valletto, cosa che la indusse a posare un cestino pieno di piatti sporchi proprio di fronte alla signora, mentre costei avanzava cautamente nella relativa oscurità dell'ingresso. E poi gli apprendisti che lasciavano la sala da pranzo abbastanza silenziosi, ma poi scoppiavano in risatine a lungo represse, oppure non controllavano più la loro tendenza allo scherzo, incuranti di chi si potesse trovare in corridoio mentre loro uscivano. Il rimedio proposto da Mrs. Gibson a tutti questi angoscianti inconvenienti fu spostare l'orario del pasto. Il cibo per gli allievi, e le osservò parlando con Mr. Gibson, poteva essere senato in ambulatorio. Qualche leggera sciocchezzuola fredda per lei e per Molly non avrebbe riempito la casa di odori e lei si sarebbe sempre preoccupata di far preparare qualcosa di squisito per il marito. Egli accettò, ma malvolentieri, perché si trattava di modificare le abitudini di una vita e credette che non sarebbe mai più stato in grado di organizzare i suoi giri nel modo giusto con questa frivola idea di mangiare alle 6. Non farmi preparare cose raffinate, mia cara. Pane e formaggio sono i cibi più importanti della mia dieta, come si dice per la vecchia signora. Non conosco alcuna vecchia signora, replicò la moglie, ma non posso davvero consentire che il formaggio esca dalla cucina. Allora lo mangerò lì, ribatte l'uomo. È vicino alle stalle e se arrivo di fretta posso averlo servito in un momento. Insomma, Mr. Gibson, è davvero stupefacente paragonare il vostro aspetto e i vostri modi con i vostri gusti. Sembrate un tale gentiluomo, come la cara Lady Kemnor era solita dire. Poi se ne andò la cuoca. Era anziana, anche se non quanto Betty. Non le aggradava il disturbo di preparare il pasto a quell'ora ed essendo metodista si opponeva per motivi religiosi a sperimentare le nuove ricette di piatti francesi di Mrs. Gibson. Era contro le scritture, diceva. Nella Bibbia si menzionava il cibo molto di frequente, ma si parlava di vini preparati in velocità, il che significava montone, di vino, di pane e latte, di fichi e uvette, di vitelli ingrassati, di un buon filetto di vitello ben arrostito, eccetera. E la sua coscienza era sempre stata contraria a preparare carne e pasticci di maiale. E ora, se le si chiedeva di cucinare piatti pagani secondo la moda dei papisti, ella preferiva smettere del tutto. Dunque la cuoca seguì le orme di Betty e Mr. Gibson dovette soddisfare il suo sano appetito inglese con omelette malfatte, polpette, vol-au-vent, timballi e crocchette, senza mai essere del tutto sicuro di cosa stava mangiando. Prima del matrimonio, egli aveva determinato di cedere sulle inezie e di mantenersi saldo su argomenti più seri, ma le differenze di opinione a proposito delle suddette inezie si presentavano ogni giorno ed erano forse più irritanti che se avessero riguardato questioni di maggiore importanza. Molly conosceva le espressioni del viso di suo padre come l'alfabeto, sua moglie invece no, e non essendo una persona percettiva, se non quando i suoi desideri personali dipendevano dall'umore altrui, ella non scoprì mai che il marito era preoccupato per le piccole concessioni quotidiane che faceva la sua volontà e i suoi capricci. Egli non permise mai che il rincrescimento assumesse una forma distinta, neanche nella sua mente. Ricordava ripetutamente a se stesso le buone qualità della moglie e si consolava pensando che con l'andar del tempo sarebbero andati più d'accordo. Ma si arrabbiò molto quando un vecchio prozio scapolo di Mr. Cox, che non si era mai preoccupato del nipote per anni, lo mandò improvvisamente a chiamare dopo essersi ripreso da una grave malattia e lo nominò suo erede, a condizione che il nipote rimanesse con lui per il tempo che gli restava da vivere. Questo avvenne quasi immediatamente dopo il ritorno dei signori Gibson dal viaggio di nozze e un paio di volte da quel momento in poi Mr. Gibson si ritrovò a chiedersi perché quel vecchio rimbambito di Benson non avesse deciso prima, liberandogli la casa dall'indesiderata presenza del giovane innamorato. Per rendere giustizia a Mr. Cox, nell'ultima conversazione che ebbe con Mr. Gibson, egli aveva affermato con esitante imbarazzo che le nuove circostanze in cui si sarebbe ritrovato avrebbero mai potuto fare la differenza nell'opinione di Mr. Gibson. Per niente, ribatté Mr. Gibson in fretta. Siete entrambi troppo giovani per sapere cosa avete in testa. E se mia figlia fosse così sciocca da essere innamorata, non dovrebbe mai affidare la propria felicità ai calcoli conseguenti alla morte di un vecchio. Direi che alla fine vi diserederà. Potrebbe farlo e allora sarete messo peggio che mai. No. Andatevene, dimenticate queste sciocchezze e quando l'avrete fatto tornate a trovarci. Così Mr. Cox se ne andò con un giuramento di inalterabile costanza dentro il cuore e Mr. Gibson dovette, suo malgrado, rispettare un'antica promessa fatta un paio di anni prima a Mr. Brownie, un contadino del circondario, e far subentrare il suo secondogenito al giovane Cox. Costui doveva essere l'ultimo di una stirpe di allievi e poiché aveva più di un anno in meno di Molly, Mr. Gibson confidò che non ci sarebbe stata una ripetizione della romantica storia di Mr. Cox. Capitolo 16. La sposa in casa. Tra le persone che contano, come le definiva Mrs. Gibson, che le fecero una visita d'auguri, ci furono i due giovani Hamley. Lo squire, loro padre, aveva offerto le sue congratulazioni, nella misura in cui intendeva farle, allo stesso Mr. Gibson, quando egli era passato da loro. Ma Mrs. Hamley, che non era in condizione di far visita personalmente, e tuttavia era ansiosa di dimostrare riguardo nei confronti della nuova moglie del suo gentile medico, e spinta forse da una certa premurosa curiosità di sapere se Molly andasse d'accordo con la matrigna, chiese ai figli di andare a Hollingford con il suo biglietto da visita e le sue scuse. I due entrarono nel salotto appena rinnovato con l'aspetto fresco e vivace dovuto alla cavalcata. Per primo si fece avanti Osborne, come al solito vestito perfettamente per l'occasione e con quella sorta di raffinatezza che gli si addiceva benissimo. E dietro a lui Roger, che somigliava a un robusto, allegro e intelligente contadino. Mrs. Gibson si era abbigliata per ricevere ospiti e aveva ottenuto l'effetto che desiderava, ovvero quello di una donna molto graziosa. Non più giovanissima, ma con maniere così dolci e una voce così carezzevole che la gente dimenticava di chiedersi quale potesse essere la sua vera età. Molly vestiva meglio che in passato, la sua matrigna se ne occupava personalmente. Quest'ultima non sopportava che la ragazza indossasse capi vecchi, sciatti e fuori moda, le ferivano gli occhi e aveva già dato sui nervi a Molly con una nuova quantità di attenzioni che andavano riservate al modo di portare gli abiti, di acconciare i capelli, di indossare guanti e scarpe. Mrs. Gibson aveva tentato di sottoporla a una serie di lavaggi a rosmarino e di creme che potessero migliorare la sua carnagione abbronzata, ma quanto a questo Molly era o disinteressata o ribelle, e Mrs. Gibson non poteva salire ogni sera nella camera della giovane per controllare che si incipriasse il viso e il collo con i cosmetici che le erano stati procurati con tanta cura. Comunque l'aspetto di Molly era estremamente migliorato, persino per lo sguardo critico di Osborne. Roger cercò invece di scoprire dalle sue espressioni e dai suoi tratti se ella fosse felice o no. Sua madre lo aveva incaricato particolarmente di osservare questi segnali. Osborne e Mrs. Gibson si resero reciprocamente gradevoli secondo le convenzioni tipiche di una visita offerta da un giovane a una sposa di mezza età. Parlarono di Shakespeare e della musica suonata con i bicchieri del tempo, rivaleggiando nella conoscenza di ciò che accadeva a Londra. Molly udì frammenti della loro conversazione nelle pause di silenzio fra lei e Roger. Il suo eroe stava manifestando un carattere a lei totalmente nuovo, non più letterario, poetico, romantico, critico, ma tutto preso dalla più recente commedia o dai cantanti d'opera. Egli aveva un vantaggio su Mrs. Gibson. La donna in effetti discorreva di queste cose solo in base a ciò che aveva appreso ascoltando le conversazioni alle torri, mentre Osborne, quell'anno, era sceso da Cambridge due o tre volte per sentire questo o vedere quello, le meraviglie della stagione. Ma la sua interlocutrice lo superava per la maggiore audacia con cui inventava gli annessi e connessi ai fatti. E inoltre ella era più abile a scegliere e a disporre le parole, così che le opinioni, che in realtà erano citazioni, sembrassero derivanti da una sua personale esperienza osservazione. E così parlando dei manierismi di una celebre cantante italiana, ella chiese: «Avete notato il suo costante ticchio di alzare le spalle e giungere le mani prima di prendere una nota alta?» Detto come per significare che Mrs. Gibson avesse personalmente notato questo dettaglio. Molly, che ormai aveva un'idea piuttosto precisa di come la matrigna avesse trascorso quest'ultimo anno della sua vita, ascoltò la conversazione con non poca sorpresa, ma alla fine decise che doveva aver capito male, giacché non poteva raccogliere le necessarie connessioni per l'esigenza di rispondere alle domande e alle osservazioni di Roger. Osborne non era lo stesso Osborne che era stato con sua madre a Hamley Hall. Roger notò che Molly stava guardando suo fratello. «Pensate che mio fratello sembri malato?» chiese abbassando la voce. «No, non esattamente. Non è in forma. Sia io che mio padre siamo preoccupati per lui. Quel viaggio sul continente gli ha fatto male anziché bene e temo che la delusione per gli esami lo abbia abbattuto. Non stavo pensando che sembrasse malato, solo un po' cambiato. Dici di dover tornare presto a Cambridge? Forse gli farà bene. Io partirò la prossima settimana. Questa è una visita d'addio a voi, non solo di congratulazioni per Mrs. Gibson. Vostra madre soffrirà per la partenza di entrambi, vero? Ma ovviamente i giovani uomini devono sempre vivere lontano da casa. Sì, replicò lui, però lei ne soffre molto. E non sono tranquillo neanche a proposito della sua salute. Andrete a trovarla qualche volta, vero? Mi vuole tanto bene. Se potrò, rispose Molly, inconsapevolmente lanciando un'occhiata verso la matrigna. Provava la scomoda sensazione che, nonostante il perpetuo fluire delle parole di Mrs. Gibson, ella potesse sentire tutto ciò che usciva dalle sue labbra. Desiderate altri libri? Chiese Roger. Se è così, scrivete una lista e mandatela a mia madre prima che io me ne vada, martedì prossimo. Dopo che sarò partito, non ci sarà più nessuno ad andarli a prendere in biblioteca. Quando se ne furono andati, Mrs. Gibson iniziò con i suoi soliti commenti sugli ospiti appena congedatisi. Mi piace quello Sborn Hamley, che bel ragazzo. Per certe ragioni, i primogeniti mi piacciono sempre. Erediterà la proprietà, giusto? Chiederò al tuo caro papà di incoraggiarlo a venire per casa. Sarà una conoscenza molto, molto piacevole per te e per Cinzia. L'altro non è che un giovanotto grossolano, secondo me, non ha un portamento aristocratico. Immagino abbia preso dalla madre, che è una parvenue, come ho sentito dire alle torri. Molly era abbastanza dispettosa da provare un gran piacere nel dire: penso di aver sentito che suo padre era un mercante russo che importava sego e canapa. Miss Osborne Hamley le assomiglia tantissimo. Ma davvero? Non c'è modo di prevedere queste cose. Comunque un perfetto gentiluomo per modi e per aspetto. La proprietà è vincolata, non è vero? Non ne so niente, rispose Molly. Seguì un breve silenzio. Poi Mrs. Gibson riprese. Sai, penso quasi che dovremmo convincere il caro papà a dare una piccola cena e a invitare Mr. Osborne Hamley. Vorrei che si sentisse a proprio agio in questa casa. Mi darebbe un po' di allegria dopo la noia e la solitudine a Hamley Hall. I due vecchi non vanno molto in visita, credo. La prossima settimana ritorna a Cambridge, la informò Molly. Ah sì? Beh, allora rimanderemo la nostra cenetta quando Cinzia sarà tornata. Vorrei avere un po' di compagnia per lei, povera cara, quando sarà a casa. Quando verrà? Chiese Molly, che era sempre curiosa e desiderosa dell'arrivo di Cinzia. Oh, non sono sicura, forse con l'anno nuovo, forse non prima di Pasqua. Prima devo far rimodernare questo salotto, poi intendo rinnovare le vostre stanze, renderle uguali. Hanno le stesse dimensioni, anche se sono ai due lati opposti del corridoio. Intendete riarredare quella stanza? Domandò Molly, confusa da tutti quegli infiniti cambiamenti. Certo, è anche la tua, cara, quindi non essere gelosa. Oh. Per favore, mamma, la mia no, pregò Molly rendendosi conto per la prima volta dell'idea. Sì, cara, anche la tua sarà sistemata. Un piccolo letto francese, tappezzeria nuova, un bel tappeto e un tavolo da toilette con lo specchio tutto decorato la faranno sembrare una stanza completamente diversa. Ma io non voglio che sembri diversa, mi piace così. Per favore, non fateci niente. Che stupidaggine, bambina! Non ho mai sentito niente di così ridicolo. La maggior parte delle ragazze sarebbe felice di disfarsi di mobili adatti solo a uno sgabuzzino. Era la camera della mia mamma prima che si sposasse, protestò Molly a voce molto bassa, esprimendo malvolentieri quest'ultima preghiera, ma certa che non avrebbe incontrato opposizione. Mrs. Gibson tacque un momento prima di rispondere. Ti fa molto onore nutrire questi sentimenti, non c'è dubbio. Ma non pensi che i sentimenti possono essere esagerati? Insomma, non dovremmo comprare alcun mobile nuovo e arrangiarci con orrori divorati dai tarli. Inoltre, mia cara, Hollingford sembrerà molto noiosa a Cinzia dopo la gaia e splendida Francia e voglio che la prima impressione sia molto attraente. Ho idea che potrei trovarle una posizione qui vicino e voglio che arrivi di buon umore perché, detto tra noi, mia cara, lei è un pochino, proprio un pochino ostinata. Questo non c'è bisogno che lo riferisci a tuo padre. Ma non potete occuparvi della stanza di Cinzia e della mia no? Per favore, la mia lasciatela perdere. Assolutamente no, non posso acconsentire. Pensa solo a cosa direbbe la gente di me, che vizio mia figlia e trascuro quella di mio marito. Non potrei sopportarlo. Non verrebbe a saperlo nessuno. In un covo di pettegole come Hollingford? Insomma, Molly, o sei molto stupida o sei molto cocciuta, oppure non ti interessa delle brutte cose che la gente direbbe di me, è tutto per un tuo capriccio egoista. No, rivendico il mio diritto di agire in questo frangente come mi pare e piace. Tutti sapranno che non sono una comune matrigna. Ogni penny che spenderò per Cinzia lo spenderò anche per te, perciò è inutile continuare a parlarne. E così, il lettino bianco rivestito di cotone di Molly, il suo antico cassettone e tutti gli altri amati ricordi della fanciulletta di sua madre furono accatastati nel ripostiglio. E dopo un po', quando Cinzia e i suoi bagagli francesi giunsero a casa, quel vecchio mobilio che aveva riempito lo spazio che bisognava liberare per l'arrivo dei bauli sparì nel ripostiglio. Per tutto quel tempo la famiglia delle Torri era stata lontana. A Lady Kemnor era stato ordinato di recarsi a Bath per la prima parte dell'inverno e i suoi l'avevano seguita. Nei monotoni giorni di pioggia, Mrs. Gibson si induceva a credere di sentire la mancanza dei Kemnor, come aveva iniziato a chiamarli da quando la sua posizione si era resa più indipendente da loro. Questo nome marcava la differenza fra la sua confidenza con la famiglia e l'atteggiamento reverente con cui i cittadini erano abituati a riferirsi al conte e alla contessa. Sia Lady Kemnor che Lady Harriet scrivevano di quando in quando a Mrs. Gibson. La prima comunicava di solito alcune commissioni che desiderava fossero svolte alle Torri o in città, e nessuno poteva occuparsene meglio di Claire, che conosceva i gusti e le preferenze della contessa. Tali incarichi furono la causa di un certo numero di conti per calessi e vetture fatti giungere dalla locanda George. Mr. Gibson lo fece notare alla moglie, ma lei di rimando gli spiegò che quasi certamente avrebbero ricevuto in dono della selvaggina in cambio della soddisfacente esecuzione degli ordini di Lady Kemnor. Per qualche ragione, neanche questa conseguenza era gradita a Mr. Gibson, però non disse nulla. Le lettere di Lady Harriet erano brevi e divertenti. Ella nutriva per l'istitutrice di un tempo quella sorta di rispetto che la incoraggiava a scrivere occasionalmente e a sentirsi lieta di aver compiuto quel dovere semivolontario. Nelle sue missive non c'era dunque alcuna vera condivisione di confidenza, bensì comparivano notizie della famiglia e pettegolezze in merito al luogo dove si trovava, che ella credeva avrebbero fatto pensare a Claire di non essere stata dimenticata dalle sue vecchie allieve, e il tutto era mescolato con moderate ma sincere manifestazioni di riguardo. Come le citava queste lettere e come vi facevano riferimento a Mrs. Gibson nel corso delle sue conversazioni con le signore di Hollingford, ella aveva scoperto l'effetto che facevano ad Ashcombe e a Hollingford la reazione non fu inferiore. Ella però era piuttosto perplessa per i gentili messaggi diretti a Molly e per le domande su come le signorine Browning avessero trovato il tè che Lady Harriet aveva spedito loro. E Molly dovette prima spiegare e poi raccontare approfonditamente tutto ciò che era accaduto quel pomeriggio alla Manor House di Ashcombe e poi la visita, intesa a incontrare lei a casa delle signorine Browning. Che assurdità, commentò Mrs. Gibson un po' infastidita. Lady Harriet voleva vederti solo per divertirsi. Voleva solo prendere in giro le signorine Browning, che l'avrebbero menzionata, avrebbero parlato di lei come se fosse una loro intima amica. Non penso che le abbia prese in giro. Sembra davvero che sia stata molto gentile. E tu credi di sapere interpretare i suoi modi meglio di me, che la conosco da 15 anni? E dico che si fa beffe di chiunque non appartenga alla sua categoria. Insomma, le signorine Browning le chiamava sempre Pixie e Flapsy. Mi ha promesso che non l'avrebbe fatto, ribatté Molly esasperata. Ti ha promesso Lady Harriet? Ma cosa stai dicendo? Solo che le chiamava Pixie e Flapsy e quando ha iniziato a dire che sarebbe venuta a trovarmi a casa loro, io le ho chiesto di non farlo se intendeva prenderle in giro. Parola mia, per quanto conosca Lady Harriet da un sacco di tempo, io non mi sarei mai permessa di essere così impertinente. Non volevo essere impertinente, protestò Molly con forza, e non penso che Lady Harriet l'abbia presa in questo modo. Non può sapere niente di tutto ciò. Lei può fingere qualunque atteggiamento. Proprio in quel momento entrò Squire Hamley. Era la sua prima visita Visita. Mrs. Gibson gli diede un grazioso benvenuto ed era disposta ad accettare le sue scuse per quel ritardo e a garantirgli che capiva alla perfezione la pressione degli impegni che gravavano su qualsiasi possidente che coltivasse personalmente le proprie terre. Ma quelle scuse non furono offerte. L'uomo scosse la testa con calore, come segno di congratulazioni per la fortuna che le era capitata nell'assicurarsi un premio come il suo amico Gibson. Eppure non proferì verbo sull'aver trascurato il proprio dovere. Molly, che ormai conosceva bene le rare e decise espressioni del suo volto, era sicura che ci fosse qualche problema e che egli fosse molto turbato. Lo squire fece appena caso alla fluente apertura della conversazione da parte di Mrs. Gibson, la quale aveva già deciso di fare una buona impressione sul padre di quel bel giovane, che oltre a essere molto piacevole avrebbe ereditato la proprietà. L'uomo si rivolse invece a Molly e apostrofandola disse, quasi a bassa voce, come se le stesse facendo una confidenza che non voleva Mrs. Gibson sentisse. Molly, a casa va tutto male. Osborne ha perso la posizione al Trinity, dove era tornato per tentare di ottenerla. E poi, dopo tutto quello che aveva detto e che sua madre aveva detto, e dopo che io, come uno sciocco, ero andata a vantarmi in giro del mio intelligente figlio, ha fallito miseramente l'esame finale. Non riesco a capire, non mi sono mai aspettato niente di straordinario da Roger, ma Osborne. Tutto questo ha fatto venire alla mia signora uno dei suoi brutti attacchi e sembra aver bisogno di te, figliola. Tuo padre è venuto a vederla stamattina. Poveretta, sta proprio male, temo. Gli ha detto che le sarebbe tanto piaciuto averti con sé e lui ha consentito che ti venisse a prendere. Verrai, vero, mia cara? Lei non è povera e la gente pensa che i poveri siano i soli destinatari della carità, ma è priva delle attenzioni di una donna come se lo fosse anche peggio, oserei dire. Sono pronta in 10 minuti, assicurò Molly molto toccata dalle parole e dai modi dello squire. Non aveva pensato a chiedere il permesso alla matrigna, avendo sentito che il padre aveva accordato il proprio. Quando si alzò per lasciare la stanza, Mrs. Gibson, che aveva udito solo per metà quanto comunicato dallo squire, ed era un po' offesa dall'esclusività della sua confidenza, chiese: «Mia cara, dove stai andando?» «Mrs. Hamley ha bisogno di me e papà dice che posso andare», rispose Molly, e quasi contemporaneamente lo squire spiegò: «Mia moglie è malata. Vuole molto bene a vostra figlia e ha pregato Mr. Gibson di lasciarla venire a Hamley Hall per un po'. Lui ha gentilmente risposto che può e io sono venuta a prenderla». «Fermati un minuto, cara», ribatté Mrs. Gibson verso Molly. Una lieve nube le oscurava il viso, a dispetto delle sue parole carezzevoli. «Sono sicura che il tuo caro papà ha dimenticato che tu devi uscire con me stasera per andare a trovare delle persone», continuò rivolgendosi ora allo squire, «che io non conosco e non è affatto certo che Mr. Gibson possa tornare in tempo per accompagnarmi. Perciò, vedete, non posso permettere a Molly di venire con voi». «Non avrei pensato che avesse importanza. Le spose sono sempre spose, immagino. Ed è il loro ruolo fare le timide. Ma non avrei pensato in questo caso. E mia moglie insiste sulle cose come fanno i malati. Beh, Molly», a voce più alta perché le ultime frasi erano state pronunciate sottovoce, «dobbiamo rimandare a domani. La perdita è nostra, non tua», proseguì, vedendo la riluttanza con cui Molly tornava al proprio posto. «Stasera starei molto allegra, oserei dire». «No, niente affatto», lo interruppe Molly. «Non ho mai voluto andarci e adesso meno che mai». «Zitta, mia cara», fece Mrs. Gibson. E rivolgendosi allo squire aggiunse: «Questo tipo di visite non sono ciò che si potrebbe desiderare per una ragazza così giovane. Niente danze, niente divertimento. Ma è sbagliato da parte tua, Molly, parlare così scortesemente di gentili amici di tuo padre, come mi pare siano questi Cockerill. Non dare al gentile squire una così pessima impressione di te. Lasciatela stare, lasciatela stare», disse lui. «Io vedo ciò che lei vorrebbe. Preferirebbe venire con me e star nella stanza di mia moglie malata piuttosto che uscire per questa visita stasera. Non c'è modo di risparmiargliela?» «No, nel modo più assoluto», rispose Mrs. Gibson. «Un impegno è un impegno con me, e per me lei non è solo impegnata con Mrs. Crockerell, lo è con me, è suo dovere accompagnarmi in assenza di mio marito». Lo squire era contrariato e quando era contrariato aveva il vizio di appoggiare le mani alle ginocchia e iniziare a fischiettare. Molly conosceva questa fase del suo scontento e sperò soltanto che lui si limitasse a quella muta espressione di irritazione. Le fu molto difficile trattenere le lacrime e tentò di pensare a qualcos'altro piuttosto che indugiare sul rincrescimento e sull'irritazione. Sentì che Mrs. Gibson chiacchierava in dolce monotonia e desiderava badare a ciò che diceva, ma la palese indignazione dello squire faceva una maggiore impressione sulla sua mente. Alla fine, dopo una pausa di silenzio, egli si alzò e disse: Beh, è inutile. Povera signora mia, non sarà contenta. Resterà delusa. Ma è solo per una sera, solo per una sera. Domani Molly potrà venire, vero? Oppure le dissipazioni di una simile serata, come mi vengono descritte, saranno troppo per lei. Nel suo tono c'era un tocco di selvaggia ironia che spaventò Mrs. Gibson, inducendola a comportarsi bene. Sarà pronta all'ora che desiderate voi. Mi dispiace tanto, la mia sciocca timidezza è un difetto, credo, eppure voi dovete riconoscere che è un impegno. È un impegno. Ho mai detto che è un impegno un elefante, signora? Comunque è inutile continuare a parlarne o dimenticherò le buone maniere. Sono un vecchio tiranno e lei? E li ha letto, povera ragazza. Mi ha sempre fatto fare di testa mia. Dunque mi scuserete, Mrs. Gibson, no? E permetterete a Molly di venire con me domani mattina alle 10? Certamente, acconsentì Mrs. Gibson con un sorriso. Ma quando egli voltò le spalle, disse a Molly: Ora, mia cara, non dovrà capitare mai più che tu mi esponga la maleducazione di un uomo simile. Io non lo chiamo squire, lo chiamo villano al massimo contadino. Non devi continuare ad accettare o rifiutare gli inviti come se fossi una ragazza indipendente, Molly. La prossima volta, se non ti dispiace, portami rispetto e obbedisci ai miei desideri, mia cara. Papà ha detto che potevo, ribatté Molly con la voce rotta. Poiché io ora sono la tua mamma, in futuro devi fare riferimento a me. Ma già che ci devi andare, è meglio che tu ci vada ben vestita. Per questa visita ti darò il mio nuovo scialle, se vuoi, e i miei nastri verdi. Quando mi si presta il dovuto rispetto, sono sempre indulgente. E in una casa come Hamley Hall, non si sa mai che possa andare e venire, anche se c'è una malata in famiglia. Grazie, ma per favore, lo scialle e i nastri non mi servono. Non ci sarà nessun altro oltre i familiari. Non c'è mai nessun altro, credo. E ora che lei sta così male. Molly era sul punto di piangere al pensiero dell'amica, sola e ammalata, che aspettava il suo arrivo. Inoltre era spaventata all'idea che lo squire fosse andato via, convinto che lei non volesse andare, che preferisse quella stupida, stupida visa dei Cockerill. Anche Mrs. Gibson era dispiaciuta. Era a disagio per la consapevolezza di aver perso la pazienza davanti a un estraneo, e un estraneo oltretutto di cui era interessata a coltivare la buona opinione. Inoltre era infastidita dal viso addolorato di Molly. Cosa posso fare per restituirti il buon umore? Disse. Prima insisti a dire che conosci Lady Harriet meglio di me che la conosco da 18-19 anni almeno. Poi accetti un invito senza consultarmi, senza pensare a quanto sarebbe imbarazzante per me entrare in un salotto tutta sola e con il mio nuovo nome, poi che mi fa sempre sentire a disagio perché è una tale degradazione dopo Kirkpatrick. E poi quando ti offro alcune delle cose più belle che possiedo, tu dici che non ha importanza come ti vesti. Cosa posso fare per compiacerti, Molly? Io, che non trovo maggiore diletto se non la pace della famiglia, e ti vedo seduta lì con la disperazione dipinta sul volto. Molly non poteva sopportare oltre. Salì nella propria stanza, la sua elegante camera nuova, che faticava ancora a considerare un luogo familiare, e iniziò a piangere, così accorata e così a lungo, che alla fine smise perché era esausta. Pensò a Mrs. Hamley, delusa da lei, alla vecchia Hamley Hall, il cui silenzio sarebbe potuto diventare opprimente per una persona sofferente, alla fiducia che lo squire aveva avuto in lei, confidando che sarebbe ripartita subito in sua compagnia. E tutto questo l'angosciava molto di più della acquirrimonia delle parole della matrigna.